Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:09, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero con così quest'idea che non ho ancora ben capito su me stesso, quanto stia risentendo di quest'ora spostata, no? Perché in effetti le sto risentendo, non so voi in questo momento. Comunque sia, la cosa straordinaria è che siamo a Verona in questo momento al Vinitaly e siamo ospiti delle cantine Ferrari nel padiglione 3, stand C3, quindi se siete da queste parti venite a trovarci sicuramente, venite a visitare insomma questa esposizione molto importante e che curiosamente quest'anno ha voluto iniziare di domenica. È un bel modo di festeggiare anche, cominciare con questo giorno della settimana. Oggi comunque, anche oggi, anche qui dal Vinitaly avremo il mistero in 24 minuti alle 11:30, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreria Rizzoli.it. Come sempre dovete arrivare alla soluzione del mistero, che può essere il nome di un personaggio famoso o di qualcosa di molto conosciuto o una notizia della settimana. Per prenotarvi c'è un numero verde che fra poco vi dirò, ma è importante ascoltare il primo indizio. Eri pecora, pecora, pecora, sei cose. Eccolo qui, questo è il primo indizio. Più indizi ascolterete più il premio si abbasserà, ma si parte appunto da 1000 euro. Il numero per le vostre telefonate 800 24 00 24. Il mistero alle 11:30. Oggi invece parliamo di simboli italiani nel mondo. Sicuramente il vino lo è, il metodo classico anche, e di questo parleremo, di simboli che in qualche modo ci rappresentano e che tutti nel mondo conoscono. E se anzi avete anche il vostro simbolo, quello che secondo voi è rappresentativo dell'Italia, fatecelo sapere o sul sito, sulla pagina Facebook del Riposo del Guerriero, o al numero per gli SMS 349 238 66 66. E cominciando con i simboli, cominciamo con un mambo. Kid, you good looking, but you don't know what you're cooking till you hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, ho ho ho, you mixed up a siciliano, hello kissa digi, you get happy in the pizza when you mambo italiano. Iniziare con Dean Martin, il mambo italiano. Tra l'altro questa è una versione che amo particolarmente, diciamo che è la versione, anche se forse ce ne sono di più famose, però questa è la versione secondo me, perché questa canzone ha un po' i simboli, quelli che ormai vabbè tutti hanno, le solite cose, ma per cercare di parlare di simboli italiani che forse non sono i soliti c'è Simone Marcuzzi al telefono. Simone Marcuzzi, buona domenica, ciao. Buona domenica a tutti. Eccoci qua. Allora, tu hai pubblicato un libro intitolato I 10 italiani che hanno conquistato il mondo e ne hai individuati appunto 10, forse anche non così scontati. Sì, era una delle regole del gioco, diciamo, no? Che ci eravamo dati con la casa editrice, quello di fare un elenco, come si fa, insomma, in questo periodo divertente, però un elenco che fosse il più eterogeneo possibile, no? Quindi che ci fossero presenti italiani del presente, italiani del passato, uomini e donne, personaggi reali, personaggi inventati, letterari diciamo, e che fossero presenti ambiti professionali anche il più disparati possibile, insomma, per fare proprio una lista eterogenea, per giocare proprio con questi italiani. Ed ecco, quindi esatto, per cercare qualcosa anche un po' di alternativo, forse anche di inaspettato. Per esempio, tra i protagonisti di questo volume c'è anche Moana Pozzi. Sì, esatto, che è chiaramente quella che balza più all'occhio, no? Ovviamente sempre. Sì, no, Moana Pozzi l'ho scelta perché mi piaceva anche che ci fosse una rappresentante della bellezza, no? Italiana. Lei rappresentava un'idea di bellezza che era meno scontata rispetto, non so, alla scelta che poteva cadere su diverse attrici famose del presente o del passato, Monacotti comunque è stato un personaggio pop rilevante, al di là ovviamente della sua professione, no? Ha avuto un ruolo proprio di cambiamento, se vogliamo anche dei costumi, e la cosa, lo spunto da cui sono partito era stata la fiction che avevano girato su di lei, che è uscita un paio di anni fa, insomma. Sì, infatti. Dai. Il riposo del guerriero. Per parlare di simboli italiani nel mondo c'è Simone Marcuzzi al telefono. 10 italiani che hanno conquistato appunto il mondo. Uno di questi, secondo il libro di Simone, è Moana Pozzi. Di lei stavamo parlando. Simone, dicevi che, ispirato alla fiction che è stata trasmessa circa 2 anni fa, hai pensato: questo è un simbolo dell'Italia. Sì, nel senso che avevo letto la notizia che in poche settimane oltre 5.000 ragazze saranno presentate al casting, no? Di Moana Pozzi per impersonare l'attrice, e questo mi ha colpito perché a quasi 20 anni dalla morte, che ci fossero ancora delle ragazze giovani, ovviamente dovevano essere, che erano invogliate a impersonarla, mi ha colpito molto. Allora sono partito a fare un po' di ricerche biografiche e ho scoperto che effettivamente già ai tempi Moana Pozzi è un personaggio che aveva mosso effettivamente, al di là della provocazione, un po' i costumi italiani. Quindi per rappresentare la bellezza in una maniera un pochino più estesa, se vogliamo, in maniera più completa, ho scelto lei piuttosto che altre attrici, insomma, che avrebbero meritato senz'altro per la popolarità. Certo, allora per passare a un mestiere completamente diverso, ma forse un personaggio inaspettato, Yuri Chechi. Sì, Yuri Chechi come sportivo, anche qui la scelta forse non è la più scontata, ma in realtà è giustificata anche questa, nel senso che la Gazzetta dello Sport nel 2000 fa un sondaggio con tutti i lettori su qual è lo sportivo italiano del secolo, e praticamente vince Yuri Chechi. Quindi c'è una giustificazione anche popolare in questo senso. Yuri Chechi, ci ricordiamo tutti l'impresa, le varie imprese, ma soprattutto quella delle Olimpiadi di Atlanta, insomma, il racconto dedicato a lui, ruotò proprio attorno all'esercizio che l'aveva portato a vincere la medaglia d'oro dopo che lui non aveva potuto partecipare alle Olimpiadi di Barcellona, quando già era favorito, perché si era infortunato poco prima della competizione, no? Quindi c'è stato anche questo fatto che sembrava che le Olimpiadi di Atlanta fosse l'ultima possibilità per lui, perché già si avvicinava ai 30 anni e quindi era proprio un giocarsi la carriera, no? E in quel momento lui tira fuori un esercizio praticamente perfetto e vince l'oro che meritava, insomma, quindi è anche una bella storia proprio di completezza della carriera, insomma, che si porta a compimento. Ecco, poi sai, non è soltanto il mestiere che si fa, la propria carriera che indubbiamente segna, ma è anche poi il carattere, la personalità che ne emerge, che è quello che affascina e interessa, no? Anche certo. Chi legge la storia di qualcuno. E poi a parte, non so, faccio degli altri esempi, ci sono Pinocchio, Luciano Pavarotti, c'è Rita Levi Montalcini, tu hai anche citato una coppia, ce li hai messi insieme, Sergio Leone e Ennio Morricone, come se i due se non potessero esistere indipendentemente l'uno dall'altro, perché ritieni che, credo, Morricone con la scrittura della Morricone con la scrittura della colonna delle colonne sonore dei film di Sergio Leone sia stato fondamentale a sottolineare il suo cinema. Sì, diciamo che lì è un po' barato, nel senso che poi i personaggi effettivamente sono 11, visto che loro sono in coppia. È vero, per quello hai fatto. Ma a livello di immaginario, se ci pensiamo, loro due vanno esattamente insieme, nel senso che è vero, Morricone ha firmato altre, penso, più di altre 500 colonne sonore oltre a quelle, però quelle lì per i film di Sergio Leone sono effettivamente quelle che a livello di immaginario, di popolarità, che quindi era un po' il gioco del libro, sono quelle più note che ci ricordiamo tutti. Comunque tra i due c'è sempre stato un rapporto molto intenso, al punto che Sergio Leone dice proprio in varie interviste che Morricone lo considera quasi un suo sceneggiatore, insomma lui fa parte proprio del tessuto dei suoi film, no? Senza quelle musiche lì i film sarebbero un'altra cosa, no? E infatti le musiche di Morricone hanno un ruolo proprio nei film di Sergio Leone, quasi come un personaggio, nel senso che ci sono degli spazi dedicati solo alla musica di Morricone, e deve essere così. Quindi erano inscindibili, secondo me, se volevamo parlare di cinema e musica insieme, erano proprio una coppia, ecco. Concordo. Per chiudere, Simone, qual è il personaggio che in qualche modo alla fine, chiuso il libro e magari riletto e pubblicato, ti ha conquistato? Ma il personaggio più divertente, secondo me, è proprio Pinocchio. nel senso che il racconto di Pinocchio è proprio il racconto di un'esperienza di lettura del libro Le avventure di Pinocchio di Collodi, no? Sì. Io me lo ricordavo, ce lo ricordiamo tutti, penso, come una lettura che si fa da bambini, ma è una lettura che si fa generalmente guidata da qualcuno, no? Quindi dagli insegnanti, dai genitori, no? E quindi quello che avevo in mente io della storia di Pinocchio era soprattutto, se vogliamo, tutto l'afflato moralistico, no? Tutti i precetti che dobbiamo seguire per arrivare, diciamo, alla buona condotta, per diventare i bambini buoni, no? Quindi non dire le bugie, bisogna studiare, non bisogna frequentare le brutte compagnie, le solite cose, insomma, certo. Ecco. Invece leggendo Pinocchio adesso a 30 anni con uno sguardo un pochino più disincantato, mi sono reso conto che il libro di Collodi è tutt'altro, nel senso che per lunga parte della storia è esattamente l'esaltazione dell'immoralità, cioè Pinocchio fa di tutto continuamente, scappa, corre, proprio è la storia di un burattino, di un bambino che non sa sottrarsi alla forza della vita, no? Che deve correre per conoscere le cose, e soltanto alla fine di tutto effettivamente lui, se vogliamo, si converte alle regole, eccetera. E tra l'altro dobbiamo considerare anche un'altra cosa, ti dico questa, sì, anche questa cosa brevemente, che è la storia di Pinocchio, per come la conosciamo oggi, è l'assemblaggio di due libri distinti che Collodi aveva scritto a puntate, no? E alla fine del primo, che sarebbero i primi 15 capitoli della storia che attuale che leggiamo, Pinocchio praticamente moriva impiccato. Quindi per Collodi la storia finiva male inizialmente, poi c'è stata una rivolta di lettori del giornale su cui veniva pubblicato, che gli hanno chiesto: no, non è possibile, deve continuare. E allora lui fa resuscitare Pinocchio nel capitolo successivo, e da lì in poi, nella seconda parte, effettivamente prende piede anche la parte, diciamo, più moralistica della storia, se vogliamo. Però nella sua essenza, nella sua prima stesura, Pinocchio era davvero un'altra cosa, ed è stato per me veramente esaltante leggere la storia oggi. E per noi anche una bella scoperta. Grazie Simone Marcuzzi, 10 italiani che hanno conquistato il mondo. Buona domenica. Altrettanto, grazie. E dopo questi 10 italiani parliamo di 1000 invece italiani, 1000 innovatori in modo particolare. Antonio Cianci, ciao, ben ritrovato, è un po' che non ci sentivamo. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Antonio, allora abbiamo parlato spesso dei tuoi libri sulle invenzioni, ne sono stati pubblicati due, ma adesso c'è un altro libro del quale parlare, che si intitola L'italiana dei 1000 innovatori, perché ci sono invenzioni scoperte che pochi sanno appartengano a geniali italiani, a menti italiane, che spesso, appunto, noi quando c'è qualcosa di particolarmente interessante associamo subito questo qualcosa a stranieri, gli italiani come se non ne fossimo più capaci. È proprio così, e invece non è vero. Ad esempio l'MP3, che ha cambiato completamente la musica da tutti i punti di vista, dalla riproducibilità, dalla facilità di trasporto, è un'invenzione tutta italiana. Leonardo Chiariglione, un ingegnere dell'allora Xelt, oggi Telecom Italia Lab, ha sviluppato all'inizio degli anni 90 addirittura non solo l'MP3 ma tutto il protocollo MPEG, quello che ha permesso la compressione dei dati e la nascita poi successiva di tutta quella che è la trasmissione digitale del segnale, quindi poi da YouTube alla musica, tutto quanto. Un'idea italiana, sviluppata ovviamente in un contesto internazionale con un'equipe di tecnici da tutto il mondo, ma assolutamente, assolutamente nostra. Come sono italiani tanti oggetti che noi non riconosciamo come tali, a partire dall'elicottero, che fu inventato per la prima volta da Forlanini, quello che poi dà il nome all'aeroporto di Milano, sì, ma che fu perfezionato da Corradino d'Ascanio, che noi invece ricordiamo per la Vespa, che è stata un'altra invenzione straordinaria. E della quale parleremo dopo. Tantissima, in tanti oggetti di tutti i giorni. Ecco, quindi, insomma, questi geni, sai, perché noi siamo rimasti un po' indietro, no? Nel senso che dopo Da Vinci più nessuno, tra virgolette, voglio dire, cioè, ne abbiamo avuti tanti, ma nel passato. E invece pare che nel presente non ce ne siano più, ma appunto le cose sono molto diverse. Ma parte di questi geni sono andati all'estero o li abbiamo ancora noi? Ce li stiamo tenendo stretti? Come funziona? Ma devo dire che molto ce lo stiamo tenendo stretto. Il senso del libro, l'Italia dei 1000 innovatori, è che andando per imprese, per laboratori, per capannoni, si trova tantissima ricchezza di innovazione italiana, che spesso però non è branded, ovvero sia poi viene acquisita all'interno di grosse produzioni internazionali e diventa parte di un prodotto che magari non è riconducibile all'Italia. Faccio solo un esempio: quando noi ormai ci siamo abituati, prendiamo gli smartphone e li giriamo, vediamo che l'inclinazione dello schermo cambia se verticale o orizzontale. Bene, il brevetto è un brevetto di una ditta di Agrate Brianza, una ditta italiana che l'ha prodotto e ovviamente poi lo cede a chi produce cose di questo genere. L'on screen display, ovvero sia la possibilità di avere un menu sullo schermo indipendente dal contenuto, di una ditta di Torino che l'ha realizzato tanti anni fa, ne ha ceduto il brevetto per prima alla Sony e poi da lì a tutti i produttori di monitor e di strumenti televisivi. Ce n'è tantissima e l'obiettivo è quella di censirla e di valorizzarla, perché spesso, soprattutto oggi che c'è bisogno di un rapporto con i mercati internazionali più forte, deve rinascere anche la consapevolezza che l'Italia abbia questo, in modo tale che non si pensi sempre alla Francia, alla Germania, all'America, adesso anche alla Cina come paesi di innovazione, ma ci si rende conto che in Italia ce n'è davvero tanta. Ti dico una storia che a me colpisce molto di qualche anno fa, quando nel 1851 a Firenze c'era funzionante il motore a scoppio di Barsanti e Matteucci, però non c'era nessuno di noi italiani che aveva la forza e il coraggio di raccontare. L'Italia era ancora divisa, non c'era un'Italia unita, per cui la paternità è stata prima data ai francesi con Lenoir e poi dopo ai tedeschi con Benz. Ebbene, ci sono voluti gli americani per ridare all'Italia la paternità del motore a scoppio di Barsanti e Matteucci. Ecco, di questo orgoglio dovremmo averne tantissimo di più. Ecco, voi avete raccolto appunto 1000 innovatori, sono tanti, sono proprio 1000 nel libro, Antonio? Allora, il libro 1000 era un numero che noi abbiamo utilizzato per ricordare i 1000 che hanno fatto l'Italia. In verità sono molti di più, nascono da un progetto, Italia degli innovatori, che è stato avviato con l'Expo di Shanghai nel 2010 e che ogni anno raccoglie, individua e cerca di valorizzare il meglio dell'innovazione italiana. Ad oggi ne abbiamo censiti quasi 1500, che poi rappresentiamo sia con una mostra multimediale in varie capitali nel mondo, sia con una serie di incontri B2B, proprio per far sì che questi innovatori possano avere quel network, quelle relazioni con cui poi andare ad avviare proficue relazioni commerciali o industriali. Per cui 1000, che ci sembrava quando abbiamo iniziato il libro qualcosa che fosse un numero da raggiungere, in verità ci arriveremo, sempre di più dalla ricchezza che abbiamo nel nostro paese. Quindi si potrà, così parafrasando i tuoi libri sulle invenzioni, si potrà pubblicare l'Italia dei nuovi 1000 innovatori, degli altri 1000, così li aggiungiamo. Così. Antonio Cianci, Davide... Noi oggi abbiamo la cover del telefonino che diventa un accessorio fondamentale. Bene, la cover è stata inventata in Italia da un personaggio straordinario, Loris Meliconi, che inventò il guscio salvatelecomando. E ce lo ricordiamo tutti. Immaginare uno strumento protettivo di quello che era un apparecchio di un elettrodomestico. Oggi la cover, che è, devo dire, forse l'accessorio più venduto nel mondo, grazie anche alla diffusione del telefonino, nasce in Italia da una piccola ditta che ha saputo imporre un'idea, un modello, fino a farlo diventare un fenomeno di costume. Vedi, non ce ne rendiamo conto noi, ce l'abbiamo in mano tutti i giorni, il telefonino, hai parlato anche del cambio appunto tra orizzontale e verticale dello schermo e ribadiamo che quello è un brevetto tutto italiano e ce ne sono molti da scoprire e da sapere, soprattutto, come dicevi tu, per essere orgogliosi. Grazie Antonio, ci risentiremo presto, buona domenica. A presto, buona domenica a tutti voi. Antonio Cianci, Davide Giacalone, l'Italia dei 1000 innovatori, Rubbettino editore. Il riposo del guerriero. Il riposo del guerriero in diretta dal Vinitaly, ospiti delle cantine Ferrari. C'è Enrico Groppari al telefono, il nostro critico teatrale cinematografico. Enrico, buona domenica. Buona domenica a te, grazie di avermi invitato. Grazie a te anche per quello che ci racconti, come sempre. Da chi partiamo? Di nomi ce ne sono tanti che sono diventati simboli dell'Italia nel mondo. Sì, come no, per esempio. Cominciamo per esempio da quelli che sono diventati addirittura il simbolo di una città italiana. Roma si identifica con Anna Magnani, che era la voce di Roma, il volto di Roma, e Napoli con Edoardo De Filippo. Sono intramontabili. Non sono più tra noi, ma è come se lo fossero, ormai sono diventati l'omonimo, l'eponimo delle città che li hanno espressi, per esempio. Però a parte l'Italia delle città, eccetera, eccetera, abbiamo per esempio, non so, l'Italia della danza, che è identificata, non so, da Carla Fracci, ancora oggi, anche se non danza più, per esempio. Abbiamo per esempio l'Italia delle cosiddette Oca Giulive, Sandra Milo sulle orme di Marilyn Monroe, e vadendo dall'Italia abbiamo, però perché vadere dall'Italia? Abbiamo anche la poesia con Alda Merini che l'ha popolarizzata, abbiamo l'arte con Vittorio Sgarbi, ne abbiamo la porno, perché no, la pornografia su carta patinata e col sorriso incantevole di Moana Pozzi. Abbiamo l'ambiguità con Eva Robbins, abbiamo poi, trasvolando negli Stati Uniti, abbiamo la voce con Frank Sinatra, abbiamo il jazz con Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, poi ritorniamo vagabondando sulla penisola con Luca Ronconi che rappresenta il teatro, per esempio. E abbiamo tanti nomi. Il divismo invece, con il divismo approdiamo nella lontana Svezia, la Svezia delle grandi solitudini, del ghiaccio eterno, ma anche del sorriso imperturbabile di Greta Garbo. Con l'infanzia invece ritorniamo agli Stati Uniti con Shirley Temple, la bambina che ancora oggi ci sorride da ogni edicola con la riedizione dei suoi film. Quindi praticamente siamo internazionali, l'Italia è diventata la punta di diamante del globo, dato che questi personaggi sono diventati simboli del loro stesso mito, basta evocarne il nome per evocare l'aura che da loro si sprigiona. Come si può immaginare per esempio l'Argentina, anche per chi non l'ha mai visitata, senza il mito di Evita Perón, che ci incalza da ogni cantonata, si può dire, dal grande musical che ancora fa nome, fa centro attorno a lei, a un musical che adesso viene replicato con grande successo a Milano, Evita la Duarte di Giulio Bocca, per esempio. Quindi la femminilità, vabbè, la femminilità è il nome di Marilyn Monroe, il sesso, per esempio, di Brigitte Bardot. Quindi l'Italia è semplicemente non la punta di diamante, il punto di raccordo internazionale di queste voci perdute, ma immagini che ci vengono restituite per sempre sul filo della memoria e sul filo di ciò che la memoria racchiude, e cioè l'immagine, e cioè la voce, e cioè il corpo, e cioè prima di tutto, non so, il cinema. Il cinema che si identifica con un'infinità di figure diverse, mentre la radio, con la radio ritorniamo a Guglielmo Marconi, dire Marconi e dire la radio. Sì, ecco Enrico, come sempre, anche prima no, discutevo con Cianci, il fatto è che questo ci porta immancabilmente al passato, no? di persone, la maggioranza di queste ormai non c'è più. E volevo capire, secondo te, se i simboli dei personaggi italiani potranno ancora esserci? Ce ne sono alcuni dell'oggi che diventeranno simboli del domani, oppure non più, o comunque in questo momento non è così? E se non è così, non lo è per anche gli altri paesi o soltanto per l'Italia, che in questo senso forse ha perso un po' di fascino, non lo so. Beh, non è che l'Italia abbia perso un po' di fascino, la questione è che siamo ormai immersi in un universo multimediale che rende la morte intercambiabile come la vita. Non c'è più una differenza sostanziale tra il mito, il simbolo di una persona reale che ci arriva da un ruolo reale in tempo reale. Il simbolo e il mito sono diventati trasversali, universali, e anche se la persona non esiste più, l'eternità dei nostri mezzi di comunicazione la rende eternamente viva ed eternamente presente. Come si fa a eliminare, per esempio, la contestazione al potere senza ricorrere al nome di Pasolini, indipendentemente dal fatto che non è più tra noi? Come si può, per esempio, anche nel modo più truce, evocare dei simboli politici come Gandhi, da una parte, che è la non violenza, i simboli del totalitarismo, ed è inutile che faccia dei nomi, del fascismo e del nazismo, senza Hitler, senza Mussolini, eccetera, eccetera. Tutto questo ci porta a un universo multimediale in cui non esiste più la scomparsa fisica del singolo, ma il singolo è diventato, indipendentemente dalla sua volontà, un contrassegno della nostra breve eternità. Certo, ci sono dei simboli transeunti, per esempio, vabbè, il simbolo non della trasgressione, ma semmai della vociferazione, non saprei come dire, è stato fino a ieri Aldo Busi, oggi nessuno quasi se ne ricorda più, però ogni tanto fa ancora le sue apparizioni, continuando a contestare il mondo in cui vive, la letteratura in cui vive, la frequenza con la quale, ecco, con la quale ci si dimostra vivo. Ma così per esempio succede anche per la poesia di Alda Merini, che mai come post mortem è in mezzo a noi, ma ci sono ancora invece dei miti di personaggi non giovanissimi che però continuano ad agitare le acque del nostro immaginario ricorrendo soltanto al nome, al loro nome. Per esempio, come si può evocare Mina senza pensare al canto, o evocare Valentina Cortese, di cui questi giorni esce un'autobiografia da Mondadori, se non pronunciando il suo nome, Valentina, che è anche il nome di una creatura di Guido Crepax dei fumetti, ma ancora prima è diventata un simbolo dell'eleganza, un simbolo della trascendenza di un'immagine, il simbolo di un personaggio che va al di là dell'attrice e si riverbera su tutta la coscienza e su tutta anche l'ammirazione degli italiani. Ecco, questo vorrei dire. Ormai non abbiamo più uomini o donne simbolo, uomini o donne mito. O meglio, il mito è travalicato nel simbolo e il simbolo ci invade da tutte le parti, indipendentemente dal fatto che il personaggio ci sia o non ci sia. Pensiamo a un simbolo dell'eleganza come Audrey Hepburn, ma il più come oggi presente in mezzo a noi. La vediamo dalle insegne dei ristoranti, la vediamo ancora pubblicizzare un'infinità di prodotti alla moda, la vediamo occhieggiare dalle pagine dei giornali. Noi non sappiamo se tra 10, 20 o 30 anni saranno ancora mito, per esempio, o quindi simbolo della freschezza, della gioia di vivere, della gioia di continuare a comunicare, i divi di oggi, i divi americani come, non so, George Clooney, per esempio, o i comici come Leonardo Pieraccioni. Forse non evaderanno, forse saranno confinati in un immaginario che interesserà solo lo storico, o magari invece attraverso la pubblicità, che è diventata la forma più interessante di comunicazione, non saranno ancora vivi e presenti in mezzo a noi, addirittura in modo tridimensionale, con il cinema che con il 3D ha reso praticamente lo schermo una funzione indispensabile del nostro modo di essere, di apparire e di confrontarci con l'altro. Di questo volevo parlare, sto parlando e sto tentando di rianimare questi fantasmi, ridandogli quell'identità che non hanno mai avuta così presente e così viva, nemmeno durante la loro breve esistenza. Certo, invece proprio quella che la comunicazione oggi ci permette di fare e di avere. Grazie Enrico, davvero, buona domenica. Ciao, sì, grazie Enrico, grazie a te Enrico Groppali, che risentiremo presto. E parlando di simboli, non possiamo, dell'Italia nel mondo, di questo parliamo oggi, non possiamo ovviamente non parlare con Antonio Mancinelli. Buongiorno. Antonio, eccoci, ciao, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Capo redattore di Marie Claire, parliamo di, vabbè, insomma, la moda è un simbolo dell'Italia ovviamente, ma noi abbiamo cambiato anche delle regole nel mondo. Sì, noi abbiamo cambiato le regole grazie alla moda, ma devo dire che la moda italiana ha anche cambiato la nostra immagine. Infatti volevo sottolineare che quando io insegno anche all'università e in un'altra scuola, faccio sempre vedere ai miei studenti, la prima immagine che faccio vedere è un'immagine del 78 di Der Spiegel, in cui l'Italia veniva rappresentata con una pistola sul piatto di spaghetti, e ce nell'82 ricordiamo tutti. E quindi e nell'82, cioè solo 4 anni dopo, per la seconda volta nella sua storia, la prima volta era stato nel 44 con Christian Dior, per la seconda volta nella sua storia Time Magazine mette sulla sua copertina un signore che si chiama Giorgio Armani e lo chiama King George. Quindi, come dire, la moda ha anche in qualche modo riscattato l'immagine dell'Italia all'estero, proprio perché improvvisamente l'Italia stava a diventare da terra di terroristi, di grandi pericoli, di rapimenti in quegli anni, no? Negli anni 70, inizi anni 80, improvvisamente a patria del buon gusto, dove si potevano imparare, dove si potevano anche trasmettere tutta una serie di quello che chiameremmo, no, stilemi, e sicuramente Armani in questo senso è stato stato il più grande, tant'è vero che poi se noi appunto diamo un simbolo di italianità, chi più di Hermani ha dato alle donne americane una divisa che non avevano fino allora, il famoso blazer, no? Da simil maschile ma che non era maschile e che serviva alle donne anche per attestare un nuovo ruolo nel mondo, cosa che fino ad allora non c'era stata, e quindi è stata una vera rivoluzione che non soltanto è stata firmata in Italia, ma che noi, l'Italia, signor Hermani, ha insegnato a loro. Però mi veniva in mente che in qualche modo l'italianità è anche a un certo punto diventata nella moda una specie di, come dire, di status, no? Per cui penso ad esempio ad altri due nomi più un po' più giovani che sono Dolce e Gabbana, che in qualche modo hanno addirittura riabilitato quello che era l'immagine dell'italoamericano che vive a Brooklyn, no? A Broccolino, per cui i ragazzi con la canottiera, per esempio, sotto la camicia, che era considerata una cosa anche un po', come dire, del popolo, improvvisamente diventava di moda, tutta una certa cultura, la discoteca con i ragazzi, e le ragazze con i crocifissi, che noi, come dire, connettiamo di più a un certo tipo di cerimonia, insomma, dell'Italia meridionale, che probabilmente diventano di grande moda. La stessa Donatella Versace a sua volta è diventata un grandissimo personaggio dopo la morte del fratello, che era comunque un genio che ha segnato molto agli americani, tanto è vero che poi lui, come dire, finisce i suoi giorni a Miami. Ma la stessa Donatella in qualche modo fa di se stessa un'icona tale, per cui addirittura si parla di clonatelle, no? In America ci sono queste signore che sono uguali a lei, col capello platinato, liscio, che si vestono in maniera molto appariscente, e quindi addirittura, come dire, trascendere, come dire, l'aspetto vestimentario è soltanto di relativo all'abbigliamento, per diventare, sono diventati dei personaggi. In qualche modo gli italiani hanno inventato un sistema della moda che prima non c'era. Prima c'era la moda francese, ma era concepita come un fenomeno assolutamente elitario e quindi riservata soltanto a pochi ricchi in tutto il mondo, bellissima per carità, ma assolutamente relativa e con un forte segno di provenienza europeo. E probabilmente invece noi abbiamo fatto un po' il contrario, cioè da piccoli esempi di quello che poteva anche essere appunto l'abbigliamento della provincia, no? L'abbigliamento dei paesi, della Sicilia, è diventato poi una specie di divisa intergenerazionale e assolutamente internazionale, per cui il fatto che andiamo, non so, nelle grandi discoteche, vediamo i ragazzi in canotta, a costine, che è una cosa che appunto noi qualche anno fa, 20-30 anni fa, connettevamo a un certo tipo di cultura, adesso invece è diventato uno status, e quindi questo è sicuramente molto interessante. Il riposo del guerriero. In diretta dal Vinitaly stiamo parlando dei simboli italiani nel mondo. C'è Antonio Mancinelli, caporedattore di Marie Claire, al telefono. Antonio ci stava raccontando chi ha cambiato un po' i dettami della moda internazionale. Antonio, volevo chiederti questo, ci hai raccontato di come spesso le idee nascono dalla nostra cultura popolare, no? E poi Volevo capire, secondo te, quanto oggi osiamo dal punto di vista della moda? Perché ci sono stilisti internazionali che magari troviamo particolarmente avanti, nel senso che osano delle cose fino a ieri impensabili. Gli italiani come sono oggi da questo punto di vista? Allora, questo è un discorso lungo, per cui mi servirebbe la tua trasmissione anche quella successiva. Faremo quindi una puntata apposta. Cerchiamo di essere molto sintetico. Siccome noi siamo un pochino specializzati nell'autolesionismo, insomma, come italiani, direi che all'interno dei nostri patri confini siamo, devo dire, molto cauti, e questo va bene, ma fino a un certo punto, nel senso che sicuramente noi ancora adesso siamo superiore alla Francia per quello che riguarda l'esportazione e quindi per quello che riguarda l'abbigliamento, non sto parlando di moda, sicuramente siamo molto bravi, ma forse dovremmo, secondo me, osare di più, dovremmo in qualche modo attestare di nuovo, come facemmo negli anni Ottanta, quindi siamo in grado di farlo, attestare un nuovo linguaggio nell'abbigliamento, proprio perché, e questa è la controprova, all'estero ci sono moltissimi talenti italiani che in questo momento stanno disegnando case straniere. Un nome per tutti, c'è cioè Riccardo Tisci per Givenchy, che ha praticamente resuscitato una maison che era, se non morta, svenuta. Penso anche a Stefano Pilati, che sta disegnando, appena finito di disegnare Yves Saint Laurent. Quindi ci sono tutta una nuova, come dire, generazione di stilisti italiani, c'è una nuova italianità che però per esprimersi, purtroppo, e questo devo dirlo in maniera anche abbastanza malinconica, per poter testimoniare la propria bravura deve andare via. E questo è abbastanza triste, c'è questo Rodolfo Paglialunga che adesso ha ridato vita a Vionnet, che è un marchio francese storico e così via. Quindi io credo che osare di più, proprio guardandosi dentro, no? Adesso va molto di moda usare questa parola che è glocal, cioè glow, che è questa sciarada tra global e locale, e cioè partire dalla constatazione che viviamo in un mondo assolutamente globale, super connesso, ma in cui ogni città, ogni luogo debba mantenere la sua identità, è assolutamente importante, perché poi proprio dalle ricchezze del singolo borgo, della singola città, della singola regione, dal fatto che abbiamo 20 cucine diverse, abbiamo 20, non so, modalità di fare un ricamo diverse, se non 30, probabilmente verrà di nuovo fuori la nostra ricchezza. Quindi secondo me dovremmo usare di nuovo un po' di più, perché questo è già successo, ci ha portato fortuna, penso anche al design, pensavo questa mattina a un film come American Gigolo nel 1980 che in qualche modo lancia la moda italiana in tutto il mondo, quando tu sei abbastanza anziano per ricordartelo, c'è la scena in cui Richard Gere apre questi cassetti e sono pieni di meravigliose camicie tutte quante di Armani, e che veramente fa capire, insomma, al mondo che gli italiani hanno qualcosa di nuovo da dire. Ecco, noi siamo stati rivoluzionari, dovremmo, nel buon gusto e nella totale, come dire, pace, forse dovremmo tornare ad esserlo. Ecco, cioè, lei si capiva molto, che comunque è una cosa che ti dà fastidio. No, molto mi dà fastidio chiaro, perché ci sono tantissimi talenti giovani italiani che per far vedere che sono bravi devono andare via, perché comunque in Italia non gli viene dato abbastanza, non viene dato loro abbastanza spazio, e questo per me è abbastanza triste, perché comunque è come se noi stessi ci facessimo del male da soli. Anche prima Cianci ci raccontava la stessa cosa, tant'è vero che è stato pubblicato un libro. Volevo solo dirti che io il film me lo ricordo solo perché è stato dato tante volte in televisione, anche anni dopo. Ecco, no, l'hai visto al cinema. Eri già maggiorenne, quindi potevi già andare al cinema senza essere accompagnato dai genitori. Va bene, grazie, ciao Antonio Mancinelli, buona domenica, grazie davvero, caporedattore di Marie Claire. 10:55, io ho Marco Lambri al telefono. Marco Lambri, buona domenica. Buona domenica, buongiorno a tutti. Ecco, Marco Lambri è responsabile del centro stile Gruppo Piaggio, e adesso cominciamo un minuto, poi ci sarà il GR e poi riprenderemo a chiacchierare. Voi non lo sapete, ve lo dico, ma nel frattempo io ho perso completamente la connessione alla rete, a internet qui, e io sono in diretta dal Minitali in questo momento, per cui mi devo anche organizzare per quanto riguarda quello che sta succedendo in onda, perché non lo vedo. Allora Marco, la Vespa l'abbiamo citata prima, è un simbolo, è ancora un simbolo dell'Italia, e tu che sei responsabile del centro stile ci dovrai raccontare i cambiamenti che vengono fatti alla Vespa, come devono essere fatti, nel senso che sicuramente dovrà cambiare perché dovrà evolversi come si è evoluta, ma rispettando dei canoni che assolutamente non possono essere toccati, immagino. Sì, Vespa è un esempio unico di mortalità nella storia del disegno industriale, e proprio perché, se pensi che è nata più di 65 anni fa, cambiando ed evolvendosi costantemente, ma rimanendo sempre se stessa. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini, le 11:05, il riposo del guerriero su Radio 24. Stiamo parlando dei simboli italiani nel mondo e lo stiamo facendo in diretta dal Vinitaly a Verona, ospiti delle cantine Ferrari. Siamo nel padiglione 3, stand C3, in un fantastico salottino. Intanto io vedo del Perlé, credo che sia versato nei bicchieri, non a me, perché essendoci il salottino appunto ci sono delle persone presenti vicino a me, le vedo perché qua è tutto di vetro e quindi, però tra poco l'assaggerò, immagino anche. Stiamo parlando appunto di simboli italiani nel mondo e c'è Marco Lambri, responsabile del centro stile Gruppo Piaggio. Stiamo parlando della Vespa. Marco, dicevamo che la Vespa, per quanto sia stata cambiata, insomma, abbia avuto piccoli cambiamenti perché la tecnologia ovviamente ha costretto a questi cambiamenti, però alcuni elementi non sono mai cambiati. Quali in particolare, Marco? Cosa non si tocca mai? Ma Vespa ha in sé un concetto fortissimo, che è quello che l'ha generata, perché quando Enrico Piaggio chiese a Corradino Dascagno di entrare questo veicolo a basso costo di largo consumo che potesse consentire di dare la mobilità a più persone possibile dopo la Seconda Guerra Mondiale, progettò questo fantastico veicolo intorno a chi lo doveva guidare, ed è il vero segreto di Vespa, cioè un veicolo disegnato intorno al guidatore, ed è quello che secondo me ha fatto sì che Vespa in questi 65-66 anni, pensate, di vita immortale, direi un caso più unico che raro nel campo del disegno industriale, ha consentito proprio che Vespa continuasse a riscuotere successi in tutto il mondo e in tutte le strade. Proprio un progetto fortissimo originato dall'idea geniale di costruire un veicolo intorno a chi doveva guidarlo e quindi rispettandone le sue esigenze. Ecco, nel mondo come si sta comportando nei confronti della Vespa? Ma prima parlavate di global e local, sì. E local. Vespa è direi l'esempio di prodotto globale, perché è un veicolo che ha successo in tutto il mondo. Oggi viene prodotto in Italia per il mercato europeo, americano, viene prodotto in Vietnam per i mercati asiatici e alla fine di aprile lanceremo il prodotto, una versione anche per il mercato indiano. Ecco, pensate che il veicolo in realtà è sempre lo stesso, perché il disegno è sempre quello originale, anche se aggiornato, come dicevi, nella tecnologia. Certo, è per forza. Ma che rispetta le esigenze locali. Per esempio il modello che lanceremo in India è leggermente più basso, perché la statura media è leggermente inferiore, deve avere la possibilità di smontare le ruote, perché lì le strade non sono ancora asfaltate come le nostre, quindi bucano spesso gli pneumatici e quindi devono avere la possibilità di cambiare, insomma, tutta una serie di accorgimenti che adattano questo prodotto di successo globale ai locali. Ecco, si chiamerà sempre Vespa, immagino, o è Vespa più qualcosa? Assolutamente sì, Vespa è un'icona, direi, non solo dello stile italiano, ma anche di un logo, questa fantastica scritta Vespa, la mela che la simboleggiò nelle campagne pubblicitarie più famose negli anni 70, quindi assolutamente si chiamerà Vespa. Resta sempre questo. Grazie Marco Lambri, buona domenica. A voi, grazie a tutti. Buongiorno. Responsabile del centro stile Gruppo Piaggio, ma l'Italia, abbiamo visto, è grande dal punto di vista della tecnologia, lo è dal punto di vista del cinema, abbiamo parlato della moda, parliamo anche della letteratura, però in particolare quella per ragazzi. Antonio Monaco, buona domenica. Buongiorno. Antonio è responsabile del gruppo editori per ragazzi, l'associazione editori, e abbiamo delle realtà costruite in Italia, ideate in Italia, di grande successo all'estero, come Geronimo Stilton, faccio un esempio. Certo, e proprio di recente alla Fiera Internazionale del Libro di Bologna abbiamo comunicato appunto i dati di vendita all'estero dei libri italiani per ragazzi, che sono costantemente in crescita negli ultimi 10 anni. E sì, e abbiamo avuto proprio un passaggio significativo. Solo 10 anni fa noi praticamente acquistavamo 1200 libri e ne vendevamo 400, adesso ne vendiamo 1800 e ne acquistiamo 1200, quindi proprio una rivoluzione, un'attenzione verso l'editoria per ragazzi italiani estremamente significativa. Ecco Antonio, secondo te c'è un segreto nostro? Perché abbiamo personaggi italiani che all'estero funzionano, c'è una ricetta? Una ricetta ovviamente è difficile, diciamo che comunque il gusto estetico, l'illustrazione italiana, forse lo sforzo e la coltivazione, diciamo che anche che gli artisti e gli illustratori per ragazzi hanno sviluppato in questi anni, perché partivamo forse in grande difficoltà, negli anni 90 era veramente difficile proporre gli italiani, c'è stato probabilmente uno sforzo creativo tale che sta dando i risultati, probabilmente abbiamo un'attitudine, uno stile che nel tempo viene riconosciuto. Ecco, perché infatti è stato anche un po' inaspettato per la stessa Italia, no? Perché davvero era uno di quei settori dove non riuscivamo in qualche modo a sfondare da questo punto di vista, e invece, come dici tu, forse la perseveranza e il gusto alla fine hanno ripagato. Grazie Antonio, buona domenica. Grazie a voi, buongiorno. Grazie Antonio Monaco. E se dobbiamo parlare di simboli italiani all'estero, dobbiamo parlare anche delle nostre parole. La pizza prima di tutte, credo. Francesca Dragotto, ciao, perché ho fame. Buongiorno, buona domenica. Buona domenica a te. No, anche perché ho fame già adesso, ma perché con l'ora legale siamo tutti sfalsati, per cui non so neanche più a che punto della giornata sono. Parliamo non di parole. Ecco, di parole italiane simbolo nel mondo, ce ne sono tante. Beh, ce ne sono tantissime, rispondo a questo punto direttamente alla tua domanda, perché sull'etimo di pizza è stato scritto tantissimo. Attualmente l'ipotesi più accreditata sostiene che si tratti del corrispondente italiano di una parola germanica, però del germanico d'Italia, quindi il gotico e il longobardo, che questa parola fosse bizzo, pizzo, che aveva il significato iniziale di morso, boccone. Da questo significato poi si sarebbe instaurata una sorta di catena e quindi da morso saremmo poi passati a pezzo di pane, pezzo di focaccia e poi alla focaccia tout court, e quindi a quella che oggi identifichiamo come pizza. Ci sarebbe anche una seconda ipotesi, però è meno sostenuta rispetto a quella che ho appena detto, che individua l'antecedente nel greco pitta, però un greco che sarebbe arrivato attraverso la zona dell'Albania, e però appunto che da pizza saremmo poi passati a pizza per incrocio con l'italiano pezzo, proprio perché fin da subito l'idea della pizza è stata legata a quella dello spicchio, ecco, a quella del pezzo con la punta, come poi testimonia l'accostamento che fanno involontariamente alcuni parlanti con pizzo, anche pizzo, che so, pizzo calabro, pizzo di alcuni toponimi, che sta appunto per punta, appuntito. Ecco, allora, dopo la pizza invece di cosa parliamo? Ne hai preparate tantissime di parole, dobbiamo sceglierne alcune. Beh, ce ne sarebbero veramente tante, perché quando parliamo di nomi simbolo, e di questo stiamo parlando, è chiaro che andiamo ad attingere a quegli ambiti, quelli che abbiamo discusso finora, in cui nel caso specifico l'Italia si è distinta nel corso del tempo, quindi parole simbolo le ritroviamo nell'ambito dell'alimentazione, della moda, della letteratura, e se già di per sé una parola è un simbolo, le parole simbolo o nomi garanzia, come li chiama un amico e collega Enzo Caffarelli che saluto e che è uno specialista di nomi, appunto, se una parola è un simbolo, i nomi garanzia sono simboli al quadrato. Ce ne sarebbero tantissimi, però ispirata da Groppali ne ho scelte due che hanno a che fare con il cinema, le conosciamo tutti e sono paparazzo e Dolce Vita. Ecco, non mi hai sentito, perché so qui c'è, tu se mi senti un attimo in ritardo, perché appunto sì, io sono qua al Vinitaly, lo so, e volevo così che tu annunciassi dopo il traffico, ma l'hai già fatto. Non importa, no, non importa, fermati un attimo, aggiornamenti sul traffico e poi parliamo di queste due parole. Il riposo del guerriero. Allora Francesca, stavamo parlando di parole simbolo nel mondo, parole italiane ovviamente, e tu, ispirata appunto da Groppali, dici ne ho scelte due che riguardano il cinema. Paparazzo, questa è la prima parola. Sì, è Paparazzo, in omaggio ad un grande simbolo di italianità, Federico Fellini, che appunto entrò in contatto con questa parola per una via che forse non tutti conoscono, perché la storia di Paparazzo è sicuramente ben nota e documentata ed ha a che fare con i ricordi di un viaggio in Italia scritti però da un inglese. Siamo agli inizi del XX secolo, quindi nei primi anni del Novecento. E Gissing raccontò in By the Ionian Sea, quindi sulle rive dello Ionio, del Mar Ionio, un diario di ricordi, di aver incontrato in provincia di Catanzaro un albergatore. Questo albergatore si chiamava Coriolano Paparazzo. E Coriolano Paparazzo si lamentava del fatto che gli ospiti del suo albergo non usufruivano a sufficienza del ristorante che l'albergo metteva loro a disposizione. Questo libro, questo diario fu pubblicato, iniziò a circolare e circa mezzo secolo dopo finì tra le mani di Fellini e di Flaiano nel momento in cui stavano girando La Dolce Vita. Flaiano era lo sceneggiatore della Dolce Vita e nel momento in cui stavano cercando il nome almeno per uno dei quattro fotografi che erano protagonisti appunto della Dolce Vita. Dei quattro almeno uno avrebbe dovuto avere un nome, gli altri sarebbero anche potuti rimanere sullo sfondo, però per uno diventava necessario individuare appunto un nome. Sfogliando quel libro, Flaiano e Fellini individuarono quella forma onomastica che da subito avrebbe identificato i fotografi scandalistici nel loro complesso e poi in particolare quelli che vanno dietro ai divi, li tampinano e che poi a partire da quel momento si sarebbero chiamati paparazzo oppure paparazzi, forma questa al plurale con cui la parola ha circolato nelle altre lingue. Scusa un secondo, Francesca. Ecco Francesca, e la seconda parola invece. Sì, per fortuna la notizia era positiva. Certo. La seconda parola è Dolce Vita, che naturalmente ha a che fare sempre con il film di cui stavamo parlando, e in questo caso il modello ispiratore è stato il pullover che Mastroianni indossava appunto durante le riprese, insomma gli abiti di scena di Mastroianni, fotografo nella Dolce Vita. La cosa interessante è come gli inglesi traducono il nostro Dolce Vita, perché collo da tartaruga, turtleneck, così indicano quel tipo di pullover che letteralmente sì. Sta per quello che si indossa da sopra la testa e che si caratterizza per il fatto di essere stretto e con il collo abbastanza alto. Ecco, grazie Francesca, scusami. No, guarda, no, mi scuso io, ma ho un ritardo per cui non riesco a capire quando mi stai per lo chiedere qualcosa. Lo sappiamo perfettamente, ma noi ti ringraziamo. E comunque, come sempre, c'è Tuttopoli su internet per andare a scovare le altre parole che Francesca oggi avrebbe voluto raccontare, poi non ce n'è stato il tempo, e poi la nostra pagina di Facebook, Il Riposo del Guerriero. Grazie, ciao. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica. Con me invece, qui dal Vignitali, visto che siamo in diretta, c'è Camilla Lunelli, che saluto. Ciao Camilla, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tu sei responsabile della comunicazione Ferrari, visto anche che siamo nostri, vostri ospiti. Allora Camilla, quando un prodotto deve così essere conosciuto anche all'estero, non soltanto per la qualità del prodotto, ma dobbiamo dirlo anche per quello che rappresenta, per il simbolo, no? Che rappresenta, a che cosa bisogna stare attenti? Beh, qualcosa, sicuramente la qualità intrinseca del prodotto deve esserci. Questo è il must, no? Esatto, e la diamo per scontata. Giustamente è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Bisogna lavorare anche sulla comunicazione. E noi all'estero devo dire che puntiamo molto su quello che è l'italianità, quindi Ferrari come sinonimo di bollicina italiana per eccellenza e di simbolo dello stile di vita italiano. Il nostro paese, nonostante i tanti problemi che stiamo affrontando, in particolare in questo momento, mantiene un grande appeal, fortunatamente viene apprezzato il nostro stile di vita, appunto dalla cucina alla moda, al design, le varie espressioni appunto di quello che è il meglio del Made in Italy. Il vino è una delle componenti importanti di questo sistema. Perché noi italiani non ci rendiamo mai conto di questo? E ogni volta dobbiamo ripetere, abbiamo fatto veramente milioni di volte, mi sono stufato ormai, anche in questo programma, lo continuiamo a ribadire, lo diciamo, cerchiamo di far capire, però noi italiani non ce ne rendiamo mai conto. C'è un motivo, secondo te, perché ci dobbiamo dare così sempre le bastonate? È vero che abbiamo un po' questa tendenza, a me devo dire che aiuta molto così anche a prendere autocoscienza del valore dei nostri prodotti, appunto di quello che è il nostro patrimonio culturale, artistico, il fatto di andare all'estero appunto a promuovere, per me Ferrari, comunque tutte le nostre industrie, imprese che si presentano all'estero veramente trovano un'accoglienza calorosa e un apprezzamento veramente per tutto quello che facciamo, che dovremo appunto portarci anche a casa e promuovere anche a casa nostra. Ecco, tanti ascoltatori stanno scrivendo, adesso esco un po' dal tema, ma lo sto facendo con te visto che sei qua, e stanno scrivendo cose che riguardano l'Italia, che secondo loro non ha un'immagine buona per gli stranieri che vengono qui, vedono cosa succede, cosa trovano in strada, cosa trovano in giro, e poi, secondo sempre i nostri ascoltatori, riporterebbero tutto questo, questo brutto, diciamo, ecco, all'estero, e quindi dando così più forza a un'immagine dell'Italia non come la vorremmo, ma forse invece non è così come pensiamo noi, appunto. Personalmente non sono d'accordo, il che non voglia dire che tutto va bene, certo. Perché sicuramente appunto i problemi ci sono e li vediamo, però è anche vero che noi, forse perché siamo abituati alla bellezza del nostro paesaggio, appunto all'importanza del nostro patrimonio culturale, alla bontà della nostra cucina, dei nostri vini, tendiamo appunto a dare queste cose per scontate. La mia sensazione appunto, soprattutto quando viaggio all'estero per appunto promuovere Ferrari, è il fatto che veramente il ricordo di una vacanza in Italia resti spesso indimenticabile, ed è per questo che poi al visitatore straniero fa piacere trovare i prodotti che ha degustato magari in loco nel proprio paese, e questo chiaramente è un volano importante per le nostre esportazioni. Quando pensate a un'etichetta o a un nome, a che cosa vi ispirate? Che cosa cercate? Beh, noi cerchiamo di, avendo 110 anni di storia, li festeggiamo proprio sì, quest'anno. 1902. Bravissimo, esattamente. Cerchiamo soprattutto di valorizzare la nostra tradizione. Giusto per farti un paio di esempi, due delle nostre etichette di punta sono il Ferrari Perlée e il Ferrari Maximum. Sono sì etichette che abbiamo lanciato noi negli anni 70-80, però si ispirano a dei bellissimi manifesti piuttosto che a testimonianze di vario tipo che ci sono arrivate ancora dagli anni 1910, gli anni 20, utilizzati da Giulio Ferrari, che è stato appunto il fondatore della nostra cantina. Quindi credo sia importante, quando si ha la fortuna di avere una lunga tradizione come la nostra, valorizzarla al massimo. Ecco, bisogna dire anche questo, è emerso nella puntata di oggi che molti nomi simbolo dell'Italia siano legati al passato, e anche per la moda, prima con Mancinelli si discuteva di questo, del passato, anche se magari ci sono ancora, però di quello che hanno fatto, no, nel passato. Dovendo invece osare, cioè così, cercando di proporre una cosa nuova ma rimanendo simbolo, dove andreste a cogliere? Beh, parlo di esperienza sì. Vissuta per quanto ci riguarda, e penso al momento in cui ci siamo interrogati ai nomi da dare ai vini rossi della nostra tenuta Castelbuono in Umbria. E anche questa volta abbiamo voluto appunto puntare su qualcosa di assolutamente identificativo. La cantina della tenuta Castelbuono è stata progettata da Arnaldo Pomodoro, sì, che quando è stato appunto sui luoghi ancora anni fa, prima di iniziare il progetto, ha pensato subito a questo carapace. Questa è la parola che ha usato lui, quindi il carapace di una testuggine che richiamava l'arcaicità, l'antichità appunto dell'Umbria, quindi questi luoghi di tradizione etrusca molto antica. Ecco, noi abbiamo scelto questa parola, carapace, sia per la cantina sia appunto per il vino di punta, il Sagrantino di Montefalco, che produciamo lì. Quindi una scelta forte, perché è una parola, se vogliamo, non facile. No, quindi possiamo usare, tu dici, anche in questo. In questo caso, non avendo una tradizione a cui ispirarci, abbiamo osato. Bravi, e avete fatto bene, poi il risultato si è visto e si vede e si assaggia soprattutto. Grazie a Camilla Lunelli, e ti lascio ai tuoi ospiti, perché dovete sapere che Camilla era qui nel salottino poi vi raccontavo, stavano bevendo per lei, perché ho visto che stavate versando quello, e niente, l'ho dovuta portare via, quindi adesso ti faccio ritornare con loro. Grazie ancora. Ringrazio, grazie a voi e buona continuazione. Buona domenica. Ciao. Grazie. Siamo al Vinitaly, appunto ospiti delle cantine Ferrari, venite a trovarci, siamo nel padiglione 3, stand 3, e adesso è arrivato il momento del gastronauta. Il gastronauta. Davide, buongiorno, ciao. Buongiorno, io invece sono in una fiumana di gente che cammina a piedi per Milano, sono 2 ore che sto camminando, quindi è una cosa bellissima, devo dire. Ho già iniziato ieri a allenarmi, a camminare intorno a Milano, ma oggi veramente è molto bello, con tanta gente. Bene, non sono in Italia dove ovviamente c'è tanta gente, ma arrivo domani. Arriverai domani. Allora, noi siamo qua, siamo immersi ovviamente nel piacere del vino e del metodo classico. E tu invece di cosa ci parli questa settimana, questa domenica? Ma guarda, questa domenica non anticipo il metodo classico, le bollicine, perché ne parlerò nella trasmissione che farò martedì, sì, in Italy, che da poi qui sarà trasmessa il sabato. Beh, oggi si potrebbe parlare appunto del Vinitaly, nel senso che del vino italiano. Ho sentito prima, si è parlato molto di export, e in realtà l'export del vino italiano sta tenendo moltissimo, mentre il mercato italiano, anche per i prodotti italiani, per i produttori italiani, comincia a essere un problema, nel senso che si consuma meno. Se la cosa forse sarà sfuggita a molti, altri no, che il consumo pro capite, sono i dati di questi giorni, è sceso a 39 litri pro capite all'anno, e quindi è un dato, diciamo, siamo partiti 15 anni fa da 120, 130, 140, veramente un calo incredibile, che ovviamente io ritengo che sia positivo, perché c'è una trasformazione del vino da alimento, come era considerato un tempo, a bevanda. Quindi sicuramente beviamo molto meglio, però c'è un dato che così mi lascia un po' perplesso, cioè questa crescita enorme di punti vendita di vino sfuso. Ieri in trasmissione ho scoperto, ha chiamato un radioascoltatore che sta facendo un censimento, che in Italia ci sono ben 4.000 punti vendita di vino sfuso, davvero un fatto incredibile, cresciuto negli ultimi tempi. Quindi cosa sta succedendo nel mercato? Nel mercato sta succedendo che in Italia, diciamo, c'è una fascia che beve sopra i 5-6 euro e c'è una fascia che beve sotto, quindi un contrasto enorme. Speriamo che questa fascia che è sotto non porti a sofisticazione come è stato in passato, perché tutti diciamo in questa fascia pericolosa stanno cercando veramente di contenere i prezzi al minimo, all'osso, come si dice, e così sono nate tante iniziative. Ce n'è una anche lì presentata appunto al Vinitaly dalla Sicilia, del vino in brick e in bag in box, addirittura supportata dalla regione Sicilia, che vuol dire che si stanno cercando tutte le formule per rendere il vino meno costoso. Ecco, io vorrei che questo renderlo meno costoso lo sia semplicemente togliendo gli orpelli appunto da attorno, ma non il contenuto, che il contenuto sia sano e importante, perché se ci fosse, diciamo, qualcosina che non funziona, poi pagheremmo fortemente. Certo, andremo a perdere completamente tutto quello che abbiamo acquistato, per cui assolutamente guai se fosse così, ma così non sarà, almeno ce l'auguriamo. Grazie Davide, goditi la tua passeggiata milanese. Va bene, continuerò a camminare per tutta la giornata, così mi chiarisco le idee. Ciao. Ciao, buona domenica, grazie. Tra poco il mistero in 24 minuti, il numero verde per prenotarvi, 800 24 00 24, per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Il riposo del guerriero. 11:35 minuti, siamo pronti con il mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. Per voi la possibilità di portare a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La soluzione, come sempre, un personaggio, qualcosa di particolarmente conosciuto o una delle notizie della settimana. Avrete la possibilità di ascoltare più indizi, ma più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Partiamo da 1000 euro, 800 24 00 24, il numero per partecipare, e il primo indizio di questa settimana arriva da Fred Buscaglione. Spara. Spara. E pensare che eri piccola. Ma piccola. Tanto piccola. Così. non potevo lasciare a metà la storia di Eri Piccola, perché ci voleva assolutamente il finale. Gran storia. Ciao Matteo, buona domenica. Ciao. Allora, vabbè, tu sei... volevo dirti prima che è squisito ascoltarti alla radio, conduci con una squisitezza che fa piacere. Ti ringrazio molto. Beh, te lo meriti. Un'idea ce l'avrei, non so se chiedere il secondo indizio, comunque. Neanch'io lo so. Vabbè, sentiamo il secondo indizio. Allora scendiamo a 500 euro. Basta solo per ricordare quei momenti in cui sei stato mio. E se fosse un'illusione, tutta questa benedetta passione che per un istante mi ha portato via. Eccolo qui, questo è il secondo indizio, siamo a 500 euro. Matteo, non so se hai riconosciuto questa canzone, lei è Laura Pausini e il titolo è Benedetta Passione. Allora. Vabbè, ma io dico, beh, non è questa passione, però vorrei, però. Butto lì via. Quell'uomo lì che ha sparato a quelle tre ragazzine. Allora Matteo, io devo prendere la tua risposta, però devi anche sapere che nel riposo del guerriero di solito queste non sono mai, proprio perché il riposo del guerriero nasce con questa filosofia, non sono mai le notizie che eventualmente potremmo prendere come soluzione. Infatti ho detto io un po' brutto come notizia. Quindi non può essere questa la risposta. Mi dispiace. L'ho pensato. Matteo, ci riproviamo però. Cosa devo fare? Ci riproverò. Grazie a te. E, andiamo avanti. Gaetana da Torino, buongiorno. Sono qui, ciao. Mi dispiace per Matteo. Che rabbia, vabbè. Gaetana, allora cosa vogliamo fare? Siamo a 500 euro. No, io adesso della mia idea. Presti la tua idea, dimmi Gaetano. Provo a dare la risposta. Vai. Allora, il ministro Fornero, emozione, tutto piccolo. Proprio dai. Il ministro Fornero, lei, grazie. Ciao Gaetana, buona domenica. Grazie. Si saprà la risposta giusta solo al 24esimo minuto, magari il ministro Fornero è la risposta giusta, ma non ve lo posso dire. Maurizio da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, io invece è più una cosa enologica, ho pensato al Vinitaly e alla presenza dei vini delle piccole isole alla mostra del Vinitaly. Chissà Maurizio, non dico niente, grazie, buona domenica. Sì, isole minori, eccetera. Sei stato piccole molto chiaro, grazie. Marina dalla provincia di Reggio Emilia. Ciao. Ciao Marina, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa facciamo? Siamo ancora a 500 euro, sì. Provo a dire... Aspetta, Marina, aspetta un attimo allora. Se non chiedi un altro indizio, ascoltiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Eri piccola, piccola, piccola, sei così. E se fosse un'illusione, tutta questa benedetta passione. Fred Buscaglione di Eri piccola, Laura Pausini di Benedetta passione. Marina, la tua risposta. Sì, quel tipo che ha truffato i VIP con le lauree in università falsa. Grazie Marina, buona domenica. Ce ne sono stati un po' stasettimana. Antonio da Padova. Pronto Antonio, ti sento, sì. Perché sento la radio, sentivo la radio che faceva eco su di me. Adesso ecco. L'ho spenta. La mia prima risposta, già sentita tre giorni, già pensata tre giorni, era da Fornero, è già stata, il personaggio è già stato. Sì. Diciamo. Allora diciamo la camuffo. Ecco, sono le zuppe pan bagnato. Esatto. No, siccome già sono già stato fregato, diciamo, precedentemente, la mia prima risposta era la Fornero. Solo che picco alla Camusso, adesso voglio dire. Cioè, tra le due, voglio dire, tra la Fornero ma la Camusso, sul piccolo la Camusso, Avrei qualche dubbio, no, Vabbè, dai, ok. Cioè, vabbè, dovrei dire di nuovo il personaggio. Certo, chiaro, no, hai ragione. Okay. Io segno. Grazie Antonio, buona domenica. Ciao, grazie, ciao. Carla da Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa facciamo, Carla? Altro indizio? Facciamo che io provo. Anche tu, senza un altro indizio. Provo perché questo personaggio mi piace tanto ed è San Suu Kyi, che ha dedicato la sua vita alla libertà del popolo birmano, piccola ma grande. E quindi provo con lei perché mi piace tanto. Diciamo che i due indizi possono corrisponderle perfettamente, per cui la risposta potrebbe essere quella giusta, ma non posso dire niente. Grazie Carla, buona domenica. Grazie, buona giornata. Scopriremo al 24esimo minuto qual è la soluzione, se qualcuno si è già portato a casa il premio. Un mistero in 24 minuti. Siamo a 500 euro, c'è Marilena da Chieti al telefono. Marilena, buona domenica. Grazie altrettanto. Cosa vogliamo fare? Abbiamo già dato un po' di risposte, non io ma voi, e siamo solo a due indizi, siamo ancora a 500 euro. Purtroppo a me hanno soffiato già la risposta, perché anch'io volevo dire la Fornero e sono abbastanza sicura. Allora diciamo una cosa, va? Diciamo che la Fornero non è la risposta giusta, va bene così? Così almeno vi spostate da questo binario. Io proprio non riesco a spostarmi. Perché a questo punto allora dico la riforma del lavoro della Fornero, forse è una risposta sprecata, però io ho quello in mente. Grazie Marilena, ma avresti avuto anche un indizio se volevi, se tu avessi voluto, però niente, grazie, ciao Marilena. Grazie a te, ciao. Che rabbia quando è così. Anna Maria da Vicenza, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, cosa vogliamo fare? Ma ascoltiamo questo terzo indizio. Ecco, allora, quando capite che vi sto dicendo, ascoltate, è arrivato allora, va bene. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Andiamo a 300 euro, ecco il terzo indizio. Sind ja wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie Radine dumm. Schau, schau, der Kommissar geht um. Wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um. Eccolo qui, questo è il terzo indizio. Anna Maria, non so quanti anni tu abbia e quindi non so se ti ricordi di questa canzone, ma ebbe un grandissimo successo. Eccolo qua, era Falco di Der Kommissar. Solo che mi ha spiazzato. T'avrà spiazzato, ma giusta, È proprio un indizio che questo, io so che arriva, Der Kommissar. Allora, in realtà io avevo in mente una notizia dal primo indizio. Non so se dirla oppure parlare dell'uscita del film di Marco Tullio Giordana. Io non dico niente. Non decidi quale risposta dare. Ti posso dire comunque la prima notizia che io Vai, certo Anna Maria, devi dirla. Allora, l'apertura di questo centro estetico per bambine dai 2 ai 12 anni a Treviso. Questa è stata, diciamo, la prima notizia. Grazie Anna Maria, sì, eri piccola, certo. Grazie, buona domenica, ciao, grazie. Claudio dalla provincia di Monza, buongiorno. Ciao, sono Claudio. Claudio, Stefano, ciao. Sì. Allora, Claudio, cosa vogliamo fare? Mi ha fregato questa che ho appena parlato, perché anch'io avevo pensato alla notizia, esattamente alla notizia di quando ho sentito eri piccolo, ho pensato al centro estetico di Treviso per bambine di 2 anni. Senti, non è la risposta giusta. Non è la risposta giusta. E non è la risposta giusta. Vabbè, no. Pazienza. Cosa vuoi fare? Ma proviamo ad ascoltare un altro indizio. Sì, allora. Dai, qualche minuto c'è ancora. Ascoltiamo quindi il quarto indizio e scendiamo a 200 euro. Questo pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Eccoci qui, Claudio, questo era tra l'altro una bellissima canzone di molti anni fa, era Fiorella Mannoia e con Pierangelo Bertoli, era Pescatore, siamo da 200 euro. Quindi eri piccola, poi il secondo me lo sono perso perché nel frattempo ero sceso dalla macchina. Sai che non te lo posso dire perché avendo scelto di ascoltare l'indizio non posso farti di riascoltare. Poi c'era Der Commissar Falco e il pescatore della Mannoia. Sì. Completa. È scaduto anche il tempo. Ecco, basta. Quindi non era destino. Vabbè. Che rabbia, ma quindi non mi dai nessuna risposta. Non so proprio dire pescatore del Falco del Commissar, niente. Vabbè, cosa ti devo dire? Mi dispiace. Mi dispiace. È anche l'ora legale che mi ha stonato. Sì, ma guarda, è così per tutti, è così anche per me oggi. Grazie Claudio, buona domenica. È scaduto il tempo, la risposta giusta era il fatto che il commissario per la pesca da Manachi ha chiesto a Camilleri di non far mangiare più novellame a Montalbano. Questo è stato pubblicato. Poi tra l'altro Camilleri ha detto ma è un personaggio letterario, comunque non è vero, comunque sia la polemica ha divertito molti, tra l'altro ha divertito anche Gramellini, è stata una delle notizie che ieri ha raccontato A Che Tempo Che Fa, era anche la risposta di oggi del mistero, ma a quanto pare nessuno è riuscito a portarsi a casa il premio, ma torno domenica prossima puntuale alle 10 come sempre, vi aspetto, grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Stefania Tagliaferri che ringrazio in assistenza, Filippo Aureggi qua e Paolo Corleoni invece in regia a Milano. Grazie a Ferrari che ci ha ospitati e dal Vinitaly c'è Alessio Maurizi tra pochissimo con Si Può Fare. A domenica prossima!